stanco di aspettare persone sempre in ritardo. O è freddo, o è caldo, o è gioia, o è pianto. Non c'è mezza misura dentro la testa di un matto. Sempre lo stesso viaggio, a tavola lo stesso piatto. Sempre la stessa merda vista con occhio distratto. Vivo in questo ritratto di un sistema malfatto, dove non gliene sbatti a nessuno se io combatto una guerra del cazzo per cercare un rimpiazzo, per non fare il pupazzo, per non sentirmi sazio, per essere un ragazzo che si impegna e si fa spazio. Se mi siete vicini vi ringrazio. Sono stanco di bugie, di manie, di stronzate, di idiozie. Sono stanco di starmene per le mie, di aspettarmi sempre il peggio, di stare rinchiuso nel mio vaneggio. Se per ogni passo avanti sono cinque che indietreggio, a sfregio reagisco, elaboro quello che ho visto, lo smonto, lo rappo, lo scrivo fino a che finisco. Capisco che il rischio è che qualcuno mi fraintenda, che qualcuno mi odi, che qualcuno si offenda. Non me ne fotte un cazzo di entrare nella leggenda, ma son troppo nervoso perché tutto mi spaventa. Frutti rappresenta per la gente di merda, per la gabbia dei matti e chi resta coi piedi a terra. Sono stanco.